GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Oltre 150 interventi dei vigili del fuoco in tutto il Friuli Venezia Giulia per il maltempo di ieri, danni rilevanti per l'acqua alta a Muggia e Grado, dove il sindaco Kovac chiede la creazione di una barriera di protezione simile al Mose sui monti, prima nevicata della stagione fino a Fondovalle. Soluzione positiva dell'avvertenza sul pronto soccorso di Trieste. Saranno attivati subito 20 nuovi posti letto per i pazienti non gravi che venivano lasciati per giorni e giorni nei corridoi del reparto di accoglienza. Sindacati soddisfatti delle proposte di Assugi. Mi pare di aver trovato una disponibilità da parte del presidente egiziano, così la premier Meloni riguardo al colloquio con Al-Sisi sul caso Regeni. La dichiarazione fatta nel corso della conferenza stampa seguita all'approvazione della manovra del governo. Bocciata per la terza volta dal Consiglio regionale una proposta di legge per la doppia preferenza di genere nella norma elettorale. Forti critiche alla maggioranza da parte delle opposizioni. Il commento dell'avvocato Paniz, difensore di Zornita, alla riapertura delle indagini su Luna Bomber. Fiducia nei magistrati, ma è un compito difficile. Sono trascorsi quasi 20 anni. Basket, il ritorno a Trieste di Michele Ruzier. È stata una sensazione bellissima tornare nel Palasport per il primo allenamento. Volley, turno infrasettimanale per la A2 femminile. 7:19 minuti e 30 secondi, buona giornata da Dario Ronzoni e da Paolo Roncoletta. Anzitutto uno sguardo alle condizioni del tempo. Il cielo si presenta variabile sul Friuli Venezia Giulia. Nella notte ci sono state piogge sulla costa e nevicate sulla fascia orientale alpina della regione, sulle Alpi Giulie. Le temperature registrate alle 7. A Trieste abbiamo 8 gradi e 3 decimi, vento da est levante a 21 km orari. Nella notte le raffiche di bora avevano raggiunto i 75 km orari. A Gorizia 6 gradi e mezzo, 6 gradi a Udine, 7 gradi e mezzo a Pordenone, 6 gradi a Tolmezzo, 1 grado positivo a Forni di Sopra, 0 gradi a Tarvisio, meno 1 grado a Sappada, meno 4 gradi sul Lussari e sullo Zoncolan, poco più di 10 gradi a Lignano e Grado. Le previsioni dell'ARPA e Friuli Venezia Giulia: nelle prime ore del mattino sarà probabile nuvolosità residua, specie sulle zone orientali, con vento da nord-est moderato sulla costa, in rotazione a ovest nel pomeriggio. In giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutte le zone. Sulla zona montana sarà possibile la formazione di ghiaccio al suolo nelle ore notturne sulle aree innevate. Si può dire esaurita la prima fase dell'emergenza maltempo che ha riguardato tutta la giornata di ieri, in particolare la costa. Sono circa 150 le richieste di soccorso pervenute ai vigili del fuoco dei comandi provinciali della regione. L'acqua alta, le piogge intense e il vento forte hanno causato danni in varie zone. Sei Grado, una delle aree più colpite dagli allagamenti, le richieste sono state solo 3. Nell'Isontino sono stati necessari 35 interventi, 25 nella zona di Pordenone e una 15ina per Udine. Nella provincia udinese, per la precisione, a Corno di Rosazzo è stato danneggiato il tetto di un capannone. A Trieste, dove le raffiche di bora hanno superato i 100 km orari, i pompieri sono stati impegnati su una 50ina di interventi tra alberi caduti o pericolanti, caduta di intonaci, danni a finestre e tetti. Tra acqua alta e bora, il maltempo ha colpito soprattutto la costa. A Muggia, numerosi allagamenti in concomitanza con il picco di marea. A Trieste, decine gli interventi per il forte vento. Niente acqua grande ieri a Trieste, solo pochi centimetri in piazza Unità d'Italia e sulle rive, e nel pomeriggio è arrivata anche la bora con raffiche forti fino a 110 km orari. Diverse le richieste di intervento ai vigili del fuoco di Trieste e Gorizia per alberi pericolanti e tegole divelte. A Fiumicello Villa Vicentina è esondato un canale, mentre a finire sott'acqua ieri mattina è stata Muggia, effetto combinato dell'alta marea, dello scirocco in Adriatico e della bassa pressione atmosferica, pubblici esercizi allagati in centro storico e danni al Duomo medievale. Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'allerta meteo prosegue anche oggi, fino a mezzogiorno, sempre per possibile acqua alta. Il picco è previsto alle 9:30 a Grado, sarà inferiore rispetto a quello di ieri. A Grado commercianti e residenti fanno i conti con i danni provocati dall'acqua e non è la prima volta che accade in questo autunno. Il sindaco propone la creazione di una barriera sul tipo del Mose di Venezia. Una piccola medusa cerca di orientarsi in via dei provveditori. A grado allagato tutto il centro con un picco di 1,66 m sul medio mare. Esercenti e commercianti impegnati da subito a ripulire mentre i cassonetti navigano sulle strade. Protezione civile, comune e polizia locale impegnati con più di 30 uomini affiancati da una squadra dei vigili del fuoco. Due anni fa Irisacqua aveva installato un tubone di 80 cm di diametro che arriva proprio davanti al porto per convogliare le acque. Il direttore di Irisacqua, Paolo Lanari, afferma che l'impianto ha funzionato perfettamente ma può essere potenziato con due ulteriori pompe. Il sindaco Kovac lancia invece la proposta di una barriera sul modello del Mose di Venezia. Grado Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Sui monti è caduta la neve, sulle Prealpi oltre i 1.000-1.200 metri, sulla fascia alpina oltre i 6-800 metri. Il manto ha raggiunto i 25 centimetri sulla fascia occidentale, ma in quota ci sono 40 centimetri di neve, mentre sulla zona orientale ci sono circa 15 centimetri. Nelle fine settimana inizierà l'innevamento artificiale in vista dell'apertura della stagione, programmata per l'8 dicembre. A Promoturismo Friuli Venezia Giulia si spera che la nevicata possa dare un impulso alla prevendita degli ski pass, iniziata ieri. Svolta positiva nell'avvertenza fra sindacati e azienda sanitaria Giuliano Isontina sulla situazione nel pronto soccorso di Trieste. I rappresentanti dei lavoratori hanno trovato risposte soddisfacenti dalla direzione di Asugi. Lo stato di agitazione verrà revocato. C'è soddisfazione tra i sindacati per l'esito dell'incontro con la direzione di Asugi sui problemi che affliggono il pronto soccorso di Trieste. Rientra dunque lo stato di agitazione autorizzato dall'Assemblea di Infermieri OS la settimana scorsa. Fabio Potocnik, sindacato FIALS. Avevamo la direzione al completo e sicuramente ha accolto tutte le istanze degli operatori che hanno denunciato con forza questo malessere nel loro posto di lavoro e pronto soccorso. Il direttore generale Antonio Poggiana ha annunciato entro metà dicembre l'aggiunta di 20 posti letto per permettere il ricovero in reparto di quei malati a bassa intensità, soprattutto anziani, che stazionano per giorni in pronto soccorso. I 20 posti diventeranno 80 in futuro con l'attivazione dell'ospedale di comunità, a cui se ne aggiungeranno 60 per l'area isontina. Asugi deve ancora stabilire dove sarà aperto questo ospedale di comunità, ne discuterà con il comune di Trieste tra pochi giorni. Antonio Poggiana, direttore generale di Asugi. I problemi, le criticità esistono, non le abbiamo mai negate, non le abbiamo mai nascoste, e le abbiamo affrontate, abbiamo trovato quelle che crediamo siano soluzioni concrete applicabili nel brevissimo periodo. Al pronto soccorso daranno poi una mano i reparti specialistici che ogni giorno dovranno ricoverare 15 persone al posto delle attuali 7. Il piano prevede inoltre un potenziamento dei trasporti per i malati da trasferire o dimettere e la presenza di un vigilante fisso anche di notte. Partiranno entro l'anno i lavori di allargamento del pronto soccorso di Cattinara, che amplierà i propri spazi, oggi troppo angusti. Rimane preoccupazione tra i sindacati dei medici, però, per la fuga dei camici bianchi dall'emergenza-urgenza, un fenomeno nazionale. Si va verso reparti con una qualità del lavoro ritenuta migliore. Entro l'anno diversi medici lasceranno il pronto soccorso di Trieste. Basteranno gli incentivi per chi lavora in pronto soccorso erogati e promessi a invertire la tendenza? Neva Lupins, sindacato a Roy Emac. L'incentivo sì, ma diciamo che la qualità di lavoro e la tipologia di lavoro fanno sì che di fatto c'è una fuga da tutti i pronto soccorso. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel corso della conferenza stampa sulla legge di bilancio, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato dell'incontro avuto con il Presidente egiziano Al-Sisi, nel quale si è parlato del caso Regeni. A una domanda precisa del giornalista Ronny Gasbara di La Presse, la Presidente Meloni ha risposto in breve, senza però entrare troppo nei dettagli. Sul tema dell'Egitto io ho trovato, mi pare di aver trovato una disponibilità. Ecco, da parte del presidente egiziano, che chiaramente stiamo verificando poi nei fatti, vedremo come andrà nelle prossime settimane, su questo non vorrei entrare troppo nel merito. I lavori del Consiglio regionale, ieri è stata bocciata per la terza volta una proposta di legge per introdurre la doppia preferenza di genere nelle elezioni regionali, era stata presentata dal Partito Democratico. Le altre regioni che non la prevedono sono Sicilia, Valle d'Aosta e Piemonte. In Friuli Venezia Giulia, regione popolata in maggioranza da donne, la politica è ancora un affare per uomini. In consiglio regionale solo il 13% degli eletti è donna. Ha provato a invertire la rotta il Partito Democratico, che ha presentato per la terza volta una proposta di modifica della legge elettorale regionale che è in vigore da 15 anni. La proposta introduce la doppia preferenza di genere, cioè la possibilità per l'elettore che lo desidera di scrivere due nomi sulla scheda elettorale appartenenti a due generi diversi. Ma nulla da fare, ha amareggiato Francesco Russo, primo firmatario della proposta di legge bocciata dalla maggioranza per la terza volta. A nulla è valso l'aiuto giunto dal Coordinamento Nazionale delle Donne Democratiche, che ha lanciato un appello a Montecitorio affinché introduca la doppia preferenza di genere anche nelle quattro regioni che ancora non la prevedono: Sicilia, Piemonte, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Una delegazione del gruppo PD alla Camera, tra cui anche la presidente Deborah Serracchiani, ha esposto un cartello con scritto sì alla doppia preferenza di genere per dare forza alla proposta di legge già sottoscritta anche da Movimento 5 Stelle, Patto per l'Autonomia, Cittadini e Open FVG. La maggioranza ha insistito perché si voti in futuro una legge complessiva di riforma elettorale, che però non è ancora stata scritta. Durante la votazione finale, dopo più di 3 ore di acceso dibattito, la consigliera di maggioranza Maddalena Spagnolo della Lega è uscita dall'aula contrariata. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. La riapertura delle indagini sul caso Una Bomber è stata accolta con grande favore dal sospettato per gli ordigni esplosivi, l'ingegnere di Corva Elvo Zornitta, e per il suo legale, l'avvocato Maurizio Panizze, anche se sono trascorsi ormai molti anni da quegli episodi. Sono molto contento che la Procura di Trieste abbia deciso di riaprire le indagini, perché prima di tutto da cittadino auspico che si trovi il colpevole o i colpevoli di questi crimini così efferati, e secondo perché come avvocato auspico che ancora una volta si trovi il modo di eliminare qualsivoglia sospetto nei confronti dell'ingegnere Zornitta, che è stato prosciolto, che è innocente, ma che qualcuno continua a considerare come un sospettabile, e questo amareggia non poco. Spero però che il decorso del tempo non sia tale da impedire un ulteriore seguito positivo. Dobbiamo essere realisti, molti di questi fatti sono accaduti alla fine degli anni 90 e quindi sono passati quasi 30 anni, e molti altri all'inizio degli anni 2000, quindi sono passati circa 20 anni. Mi pare molto difficile, nonostante alcune tecniche siano molto migliorate dal punto di vista della possibilità di individuare il DNA, eccetera, il decorso del tempo è impietoso, soprattutto perché poi l'eventuale reperimento di alcuni elementi di confronto deve far riferimento a delle persone. Bisogna vedere se queste persone esistono, se sono ancora vive. Sono tanti i fattori che con il decorso del tempo si annacquano e determinano la difficoltà di raggiungere determinati obiettivi. Ma la Procura è brava, il dottor De Nicolo e il dottor Frezza, che si occupano di questa vicenda, sanno sicuramente il fatto loro, per cui io credo che tutto quello che si potrà fare lo faranno senz'altro. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nella cattedrale di San Giusto si terrà in mattinata la messa di suffragio alla memoria di Giuseppe Bono, presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, a lungo amministratore delegato di Fincantieri, morto lo scorso 8 novembre. Alla cerimonia, che inizierà alle 11.30, sono previsti gli interventi da parte dell'attuale amministratore delegato di Fincantieri Pier Roberto Folgero, del presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Grusti, del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Dopodomani, venerdì 25 novembre, sarà pubblicato sul sito della Regione un apposito avviso contenente l'informativa in merito alla concessione dei fondi a favore delle piscine e impianti termali in difficoltà a causa delle spese per l'energia. Il provvedimento è stato portato all'attenzione della seconda commissione consigliare regionale dall'assessore Bini. Oltre ai 3 poli termali regionali di Grado, Monfalcone e Arta Terme, sono 26 potenziali beneficiari impianti natatori con specifici codici Ateco. Ai poli termali verranno riconosciuti 150.000 euro pro capite, mentre ad ogni singola piscina l'importo è stato fissato in 40.000 euro. La norma è stata approvata all'unanimità. 7:32 minuti e 30 secondi. In un'iniziativa di Confindustria Udine punta a far conoscere ai giovani delle scuole superiori alcune realtà di eccellenza del mondo produttivo. Negli stabilimenti della AVM di Magnano in Riviera, la visita degli studenti dell'Istituto Professionale Raimondo Daronco di Gemona del Friuli. Sistema di conteggio con dei rulli e un encoder, e questo è il sistema di taglio. Iniziativa della Confindustria di Udine per diffondere i valori della cultura d'impresa. Roberto Bernardinis, direttore commerciale della AVM SRL di Magnano in Riviera. È un modo per farci conoscere, un modo anche per far interessare i ragazzi. Noi siamo nel settore più di nicchia, dove però c'è molta automazione, c'è molto software, ci sono molta elettronica, quindi insomma è un'attività multidisciplinare che può attirare sia i meccanici che gli elettronici che i softwareisti. In questi capannoni da 35 anni vengono progettati e fabbricati macchinari industriali all'avanguardia per l'edilizia. La guerra in Ucraina, esplosa lo scorso febbraio, sta creando forti criticità all'export, in particolare verso la Russia. Fortunatamente i nostri impianti non sono sanzionati, quindi noi possiamo continuare a vendere. Ma le difficoltà a provare il fatto che per esempio non sono impianti dual use, il fatto che non possono essere usati per tecnologie militari, il fatto che non contengono anche componenti singole che possono essere poi riciclate per guidare missili o cose del genere, ogni singolo pezzo va fotografato, bisogna provare che non è riutilizzabile per scopi bellici. Alcuni mesi fa l'azienda è entrata a far parte del gruppo italiano Schnelle, da 150 milioni di fatturato all'anno, che ha sedi in diversi paesi del mondo, fra cui Brasile e Cina. Elena Scarrone, TGR Friuli Venezia Giulia. Viene inaugurato oggi l'anno accademico 2022-2023 dell'Università della Terza Età Paolo Naliato a Udine, con una lezione sul tagliamento. Come ci ha spiegato la Presidente Maria Letizia Burtulo, il programma è vasto e dedicato a tutte le età. Tra le lezioni anche uno sportello di informatica e corsi di cucina e lingue straniere. Chiunque può iscriversi all'Università della Terza Età. Ma è certo che da noi prevalgono gli iscritti che sono andati ormai in pensione e quindi hanno molto tempo disponibile e desiderano rimanere attivi con la mente e con il fisico, e anche sono rimasti curiosi nei riguardi della società, del mondo che ci circonda, della cultura. Direi che sono interessati a tutto, dalle attività di tipo artistico, ai laboratori, artigianali, alla cultura in tutti i campi, da quella umanistica a quella scientifica, alle lingue straniere. Si possono imparare a qualsiasi età. Naturalmente c'è la curiosità anche per i giochi di logica, qualche escursione ovviamente alla portata di chi ormai ha qualche anno. Quest'anno, avendo la nuova sede e la possibilità quindi di avere una cucina, avvieremo anche qualche piccolo corso culinario, che sono un po' di gran moda, no? Abbiamo dei corsi di fisica, un po' la fisica in tutti i giorni, così come continuiamo con uno sportello di consulenza informatica, in cui si risolvono i piccoli problemi che ciascuno di noi ha con i nostri strumenti, dal telefonino all'iPod, al computer, insomma. Ecco, e da noi non c'è una distinzione netta. Molti docenti sono anche corsisti invece in un altro corso. Non ci sono esami perché è un'associazione, però certamente ci sono dei questionari di gradimento, e tutto viene fatto in un clima libero ma di partecipazione attiva. C'è un forte dialogo tra docenti e studenti. In vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra dopodomani, la Questura di Trieste ha organizzato un incontro con gli alunni delle scuole secondarie superiori per far conoscere i contenuti della campagna di prevenzione della polizia «Questo non è amore». L'evento si terrà nell'Aula Magna del Liceo Galilei di Trieste, in via Mameli 4, a partire dalle 10. Oggi è il primo appuntamento dei seminari sulla comunicazione della disabilità. L'iniziativa, promossa dalla Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, mira a superare gli stereotipi sul tema ed è rivolta anche ai giornalisti. Si svolgerà nella sala convegni del Grand Hotel Entourage a Gorizia alle 14.30. Sempre a Gorizia verrà installata una Stolpenstein, pietra d'inciampo in memoria di Prospera Vitale Bolaffio. Sarà presente il rabbino Josef Levi di Firenze, parente della deportata, la scuola media Locchi di Gorizia e il sindaco. La cerimonia è prevista alle 13 in via Manzoni. L'Università di Udine ospita, a partire da oggi fino al 25 novembre, il convegno Simple, tradurre, scrivere e semplificare, dedicato ai nuovi orizzonti dell'arte della traduzione e della redazione del testo. Proprio su questo punto abbiamo sentito la professoressa Sara Vecchiato, che ci ha spiegato cos'è la redattologia, una nuova disciplina che mira a rendere più chiaro il mondo. La redattologia è una disciplina che è nata di recente in Canada. Fa parte di un mondo di ricerche, fa parte di un movimento di opinione riguardante quello che in Italia è stato chiamato linguaggio chiaro, quindi il parlare chiaro che si è visto in Italia nei primi anni 90. Quindi è una disciplina abbastanza recente e vuole studiare la scrittura professionale. Questo riguarda per esempio la redazione di istruzioni, i foglietti illustrativi, la comunicazione web o anche il giornalismo. L'obiettivo della redattologia è quello di fornire degli strumenti scientifici disciplinari per formare delle persone in grado di elaborare dei testi comprensibili, accessibili, efficaci per il lettore. Possiamo dire che a livello di scrittura si mette un po' da parte la dimensione dell'espressione per privilegiare la dimensione della comunicazione. Si studiano le strategie possibili, è una disciplina per definizione interdisciplinare, quindi raccoglie dei contributi dalla psicologia, dal design, pragmatica, cognitiva, e tende a elaborare delle strategie che funzionano attorno al lettore, qualunque tipo di lettore, e soprattutto si concentra sui lettori che possono avere delle difficoltà nel leggere, oppure anche le persone che sono toccate da diversi livelli di disabilità. Si concentra l'attenzione sulle parole da scegliere, sulla formulazione delle frasi, sulla formulazione dei paragrafi, sull'impaginazione. Intende studiare tutti gli aspetti della redazione di un testo in modo che possa essere accessibile a qualunque tipo di lettore. Parlando ancora di università, verrà inaugurata alle 15 a Udine la nuova biblioteca del Polo Scientifico dei Rizzi. Ospiterà anche un'innovativa sala plurifunzionale con tribuna telescopica capace di trasformarsi a seconda delle esigenze in auditorium o sala studio. Il movimento Ancora Italia apre un punto di ascolto per i cittadini a Trieste, nella sede di via Rossetti 20, dalle 17 alle 19. Per informazioni c'è l'indirizzo mail sezione trieste@ancoraitalia.it. Comincia oggi fino al 25 novembre la conferenza internazionale Life Behind Fences, Artistic Production and Coping Mechanism in Ghettos and Camps During the Second World War, sulla produzione artistica e i meccanismi di difesa nei ghetti e nei campi durante la Seconda Guerra Mondiale. L'iniziativa promossa dal Festival Victor Ullmann insieme al Museo della Comunità Ebraica di Trieste vedrà la partecipazione di 15 studiosi provenienti da vari paesi europei. Si terrà all'Università degli Studi di Trieste. Si conclude stasera Cromatismi 2022, la stagione cameristica di Trieste, progettata da Chamber Music per la direzione artistica della musicologa e pianista Fedra Florit. In scena al Teatro Miela si esibirà il pianista ungherese Zoltán Fejérvári con musiche di Schubert, Ravel, Janáček e Robert Schumann. Appuntamento alle 20:30. Per la musica da camera in programma a Trieste l'esibizione del Quintetto Virtuoso nell'ambito dei concerti del Conservatorio, una serata all'insegna dell'atmosfera classico-romantica di Fondo Hani e di Dvorak a partire dalle 20:30 in sala Tartini. Si esibirà stasera a Villesse il Trieste Flute Ensemble, orchestra di soli flauti, una rarità nel panorama musicale italiano ed europeo. Nel concerto Conferenza Senza Confini, attiva dal 2005, l'orchestra vanta un ricco repertorio costituito da musiche originali, trascrizioni e brani scritti apposta per questa formazione. Per gli appassionati e per i curiosi, appuntamento alle 20:30 in sala Don Bosco a Villesse. Ascanio Celestini è protagonista stasera a Casarsa della Delizia per una replica del suo nuovo spettacolo Museo Pasolini. Tra i più apprezzati narratori della scena italiana sarà in scena al teatro Pierpaolo Pasolini alle 20:45. Mentre Enrico Bertolino porterà stasera il suo format Instant Theater, in cui fonde comicità, satira, attualità, al Teatro Luigi Bon di Colugna, accompagnato dai musicisti Roberto Antonio Di Bitonto e Tiziano Canna Saghedu. Inizio alle 20:45. Un dialogo tra poeti e letterati in omaggio a Pierpaolo Pasolini si intitola Sui vecchi muri, l'appuntamento che fa parte del progetto Viers Pordenon nel Mont, Pierpaolo Pasolini da Casarsa ai luoghi della giovane poesia italiana, realizzato da Fondazione Pordenone Legge. A parlare ci saranno la poetessa Silvia Salvagnini, Chiara Mutton, Elena Zanchetta, Gianmario Villalta. Al centro, in tema della periferia, la natura, il paesaggio agreste, come segno di rinascita. Appuntamento alle 18 a Sacile nel Salone delle Feste di Palazzo Regazzoni. Nel centenario della sua nascita si ricorda oggi al Circolo della Stampa di Trieste Ugo Amodeo, regista Rai, attore, insegnante e scopritore di talenti. Le sue produzioni come Il Campanone, Il Caicio e Caris Tornei furono veri eventi che coagulavano la sensibilità dei triestini nella consapevolezza della propria identità storica e culturale. All'incontro, previsto alle 17.30, anche Giuliana Stecchina, autrice de Il Mosaico di Ugo, libro che raccoglie testimonianze sull'uomo e sull'artista e ne testimonia il suo ruolo fondamentale nella cultura teatrale e non solo. Lo sport basket, presentato ieri Michele Ruzier, che dopo 8 stagioni torna a giocare nella città dove è nato e dove aveva trascorso la prima parte della carriera cestistica. Quando sono tornato all'Allianz Dome per fare il primo allenamento e conoscere i nuovi compagni è stata una sensazione bellissima, ha detto. Come ha sostenuto il coach, bisogna andare in palestra e lavorare e cercherò di accelerare nel più breve tempo possibile il mio inserimento con i compagni e dare il contributo. Sono state le prime parole di Ruzier. Pallavolo, turno infrasettimanale per la Serie A2 femminile. La ITAS Ceccarelli Martignacco ospita l'Antea Vicenza, mentre la CDA Talmassons gioca a Soverato. Inizio per entrambe alle 20.30. 7.43 minuti e 50 secondi, iniziamo la nostra rassegna stampa. La fotonotizia di prima pagina del Piccolo è dedicata al maltempo, acqua alta e raffiche a 100 all'ora. Sotto il titolo riguardante la riapertura dell'inchiesta su Luna Bomber e le interviste alle due donne venete ferite dagli ordigni trappola, la procura ha fatto ripartire le indagini a seguito della loro istanza. Un richiamo di prima pagina si riferisce alla bocciatura della proposta di legge per la doppia preferenza di genere in Consiglio regionale. Altro richiamo riguarda invece l'avvertenza fra Trieste Trasporti e gli autisti. In pagina economica il progetto di un corridoio esente da dogana fra il porto di Trieste e lo scalo di Fürnitz vicino a Villacco. In prima di cronaca cittadina i punti della proposta di Esugi per risolvere i problemi del pronto soccorso, proposta che ha trovato il giudizio positivo dei sindacati. Il Messaggero Veneto, edizione di Udine, apre con la manovra del governo che riguarda, così il titolo, pensioni, famiglia e fisco. Al centro la spettacolare fotonotizia sul maltempo con l'immagine della mareggiata di Lignano che mette alla prova le barriere protettive. Il nuovo sistema di protezione, si legge nelle pagine interne, è lungo 3 chilometri ed era stato completato da pochi giorni. Adesso si potrà verificare la sua efficacia di fronte a un picco di marea che ha raggiunto i 155 centimetri. A fondo pagina, spazio al problema della carenza di personale nei comuni del Friuli. In 20 anni è stato perso il 20% degli addetti. Nella cronaca locale lievitano i costi per la costruzione della palestra nella scuola elementare da 1,7 a 2,4 milioni, tanto che il comune è stato costretto a rivedere l'iter. Il Gazzettino, edizione di Udine, dedica invece l'apertura al rischio sopravvivenza dei comuni di montagna, da Barcis a Cimolais. Secondo l'Istat, tra 20 anni rischiano di scomparire almeno 20 paesi. Campeggia la fotonotizia dedicata a Tex Willer, che al PAF avrà una stanza tutta per lui, mentre per la politica il sindaco Fontanini è più vicino alla ricandidatura, spronato, sembra, da un sondaggio che lo vede favorevole. La fotonotizia di prima pagina del Piccolo di Gorizia, e Monfalcone ritrae una donna che in bicicletta attraversa le strade allagate di Grado. Richiami di prima pagina, quasi 2 milioni per il parco Coronini, ma rimane chiuso da 2 anni. Ricorderete la tragedia del tredicenne caduto in un pozzo. Prima pagina dell'edizione di Gorizia sulla prossima fiera di Sant'Andrea che si terrà ai Giardini nei primi giorni di dicembre, ma dal 2023 si cambia. Il titolo di prima pagina del Piccolo di Monfalcone recita: le barche per i casoneri a Panzano, slitta al 2023 la posa degli ormeggi. Anche il Messaggero nell'edizione di Pordenone dedica l'apertura alla manovra del governo, ma al centro la fotonotizia di una Pian Cavallo imbiancata dalla neve. Il maltempo ha portato la neve in quota, ma con diversi disagi in serata ci sono stati guasti e ritardi lungo la linea dei treni. E proprio nel momento sbagliato smette di funzionare il riscaldamento del liceo Leopardi Maiorana, la cui notizia è a fondo pagina. Ieri il sindaco ha firmato la chiusura per 2 giorni dell'istituto. Per la cronaca cittadina, il piano per gli interventi della viabilità, che ridisegna infrastrutture e abitudini. Previste più linee di bus, ma saranno spostate fuori dal ring Pordenone. Aumentano le cerniere di mobilità e le ciclabili. Prevista una sopraelevata all'altezza del sottopasso di via Cappuccini. Anche il Gazzettino, edizione pordenonese, parla in taglio basso del piano di viabilità. La città del futuro, scrive, passa attraverso la nuova mobilità, che ha l'obiettivo di limitare l'accesso delle auto in centro città. Nella cronaca sarà processato il ghanese che si fingeva militare americano e truffava le donne online, ammaliandole e facendosi dare soldi. Avrebbe intascato più di 50.000 euro. C'è spazio per altre notizie e segnalazioni. Smartphone e computer sempre più in mano a bambini e ad adolescenti. Il fenomeno al centro dell'incontro opportunità e rischi delle nuove tecnologie, che indaga su problemi e possibili dipendenze, previsto al Kulturnidom di Gorizia a partire dalle 19. Ospite il terapeuta Miha Kramli. L'incontro si terrà in sloveno con traduzione simultanea in italiano. Si chiude oggi il convegno Voglia di Bio, parte del progetto di divulgazione dell'agricoltura biologica realizzato da Edilador in collaborazione con AIAB Friuli Venezia Giulia e finanziato da ERSA Friuli Venezia Giulia. L'incontro finale, che si terrà a Udine nell'auditorium regionale, intende presentare il quadro europeo delle politiche per il biologico per poi calarsi nel concreto della nostra regione. I lavori iniziano alle 9 di mattina. L'ultimo appuntamento del ciclo Tra parole e immagini, compreso negli eventi d'autunno della Fototeca e della Biblioteca Civica di Trieste. Alessandra Didonè, archeologa dell'Università di Udine, presenterà i risultati dello studio sulle fotografie archeologiche di Aquileia conservate in Fototeca. Inizio alle 17.30 nella sala Baslen di Palazzo Gopcevic. Lotta ai tumori, da oggi fino al 30 novembre la fontana del Nettuno di Piazza della Borsa a Trieste sarà illuminata di azzurro, un segno in occasione della campagna Percorso Azzurro Lilt for Men, su richiesta della Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Le storie di forza e valore delle donne resiane raccontate a ritmo di flamenco e lo spettacolo di beneficenza Donne Feminas Mujeres, organizzato dal Rotary di Cividale del Friuli e dall'associazione Five Events della Valresia a sostegno di centri antiviolenza femminile. Le antiche vicende di friulane che lavorano in Finlandia diventano esempio e modello per combattere la violenza aumentando l'autostima. Inizio stasera alle 20.30 al Teatro Ristori di Cividale del Friuli. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'anticipazione del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vue o Fevelin D, che parlerà di un presepe di mosaico avviato lo scorso anno a Spilimbergo e che si va rapidamente completando, coinvolti nella sua realizzazione giovani artigiani mosaicisti. A ideare questa impresa è stato Alessandro Serena, spilimberghese, mosaicista da sempre. Alle 11.20 circa andrà in onda A Volo Radente, focus sul fegato, su cui da tempo e con ragguardevoli risultati si concentrano gli sforzi e le attività congiunte dal Dipartimento di Area Medica UniUD e della Fondazione Italiana Fegato FIF. Parleremo poi di asili nido e aziende, di benessere della persona e di tutte le sfide che la psicologia lancia alla fine di ottenerlo. Concluderemo con il dirigente della squadra mobile di Udine che in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne presenterà le iniziative promosse nelle scuole. I programmi regionali tornano poi alle 13.29. 7.50 minuti e 40 secondi termina la prima edizione odierna del giornale radio regionale, edizione redatta da Dario Ronzoni e Paolo Roncoletti. In redazione ha collaborato Laura Sarasini, assistenza tecnica di Carlo Morello. I prossimi appuntamenti con l'informazione radiofonica regionale: alle 11.05 minuti circa c'è l'edizione flash, alle 12.30 l'edizione meridiana. Ricordiamo che le notizie le potete trovare anche sul nostro sito www.rainews.it/tgr/fvg e sui profili social Twitter e Facebook TGR FVG. A tutti voi grazie per la cortese attenzione. Dopo la sigla ci sarà l'Onda Verde. Buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.